Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma io ho votato il PD, ora voto il Movimento 5 Stelle, insomma se va bene il mio voto vanno bene i voti dei cittadini italiani se decidono di votare, ma non sono i voti della Lega i voti del PD, altrimenti io ho l'onta di aver votato una volta il PD e devo votare il PD tutta la vita, invece grazie a Dio mi sono disintossicato. Si è disintossicato Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ha fatto coming out, ha votato il PD, però si è disintossicato, ognuno evidentemente ha le sue dipendenze e anche il suo modo poi di uscirne. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, molti sono gli argomenti questa sera, a proposito di politica, restando sulla politica, torneremo a parlare naturalmente delle primarie a Napoli, perché sapete che ieri lo sconfitto Bassolino aveva presentato ricorso alla commissione di garanzia del PD, che però oggi lo ha rigettato per diversi motivi, primo fra tutti perché è arrivato oltre le 24 ore da quando c'erano state le votazioni. È stata proclamata quindi vincitrice Valeria Valente, però il PD si è spaccato insomma su questa vicenda. Ne parleremo più tardi e vi farò invece sentire sulla vicenda degli ostaggi uccisi in Libia un audio molto particolare, molto toccante, che ha fatto sentire la vedova di Salvatore Failla durante una conferenza stampa oggi, un po' denunciando il fatto che il marito fosse stato abbandonato a se stesso, fosse stato lasciato solo, come lui dice: nessuno mi aiuta, fai qualcosa, anche la ditta Bonatti non se ne occupa, così insomma questo quello che dice in questo audio. Poi parleremo dell'emergenza migranti, perché col fatto che si sta chiudendo completamente la rotta balcanica, la Grecia è un po' bloccata lì in mezzo con chi arriva e che si ferma. In Grecia sono circa 40.000 persone al momento, altre ne stanno arrivando. E poi molti altri temi, però ho visto già molti vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di un input che vi ho lanciato questa sera. Questa è l'idea degli oncologi, che dicono: se si aumentano di un centesimo le accise su ogni sigaretta venduta, quindi praticamente un aumento di 20 centesimi a pacchetto, si ricavano 720 milioni l'anno da destinare a un fondo per pagare le costose terapie innovative contro il cancro. Questa è un'idea di Carmine Pinto, in particolare presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Che ve ne pare? Naturalmente non piacerà a molti fumatori, sarebbe bello però che piacesse anche ai fumatori questa iniziativa. Insomma, potete rispondere positivamente, negativamente. Vedo molti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che poi man mano leggerò. Potete anche scriverli come sms al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, o la pagina Facebook del programma. Ma come consuetudine adesso vi sintetizzo prima di tutto la giornata. Conti pubblici, lettera della Commissione europea all'Italia, flessibilità possibile se rispettati gli obiettivi e se ci saranno progressi sulle riforme. Terrorismo, fermato un imam di 22 anni che progettava un attentato alla stazione di Roma, e il ministro Alfano sottolinea: la prevenzione funziona. Libia, la vedova di Salvatore Failla rivela: uno dei sequestratori mi chiamò e parlò in italiano, a breve previsto il rientro delle salme. Migranti, la Macedonia blinda i confini, la rotta dei Balcani chiusa, emergenza in Grecia, in 40.000 bloccati, altri in arrivo. Le primarie di Napoli, rigettato il ricorso di Bassolino, proclamata vincitrice Valeria Valente, l'ex sindaco commenta: il PD chiude gli occhi e un colpo di spugna che offende la città. L'omicidio di Roma, il legale di Marc Prato dice: non è stato lui a infliggere il colpo finale a Luca Varani. Francia, la riforma del lavoro spacca il paese, proteste oggi in piazza e tafferugli, ma un francese su due l'appoggia. Il caso Cucchi, pubblicate le motivazioni della Cassazione per il rinvio a giudizio dei cinque dottori del Pertini, ingiustificabile, si legge, l'inerzia dei medici. Fukushima, secondo gli esperti di Green Cross, dopo 5 anni la radioattività è ancora 35 volte sopra la norma. Calcio in Champions per il Paris di Ibra, esame d'inglese contro il Chelsea. Partiamo quindi dalle raccomandazioni dell'Unione Europea sui conti pubblici. Da Bruxelles sono state spedite lettere a 5 paesi, Italia compresa. Poco più di un mese di tempo entro il 15 aprile per dettagliare le misure necessarie a centrare gli obiettivi di bilancio. La Commissione europea fissa il termine entro il quale Roma dovrà garantire un rientro nei parametri europei per i conti. Giornata non casuale, in quella data l'Italia presenterà il nuovo piano di stabilità. Bruxelles ha inviato l'attesa lettera sia all'Italia sia ad altri 5 paesi, tutti accomunati dal rischio di non rispettare gli obblighi di bilancio e del patto di stabilità. Nella lettera inviata all'Italia, Bruxelles pone paletti precisi per la flessibilità. La possibile eleggibilità dell'Italia per la flessibilità aggiuntiva nel 2016 sarà considerata nel contesto della valutazione della conformità col percorso raccomandato verso l'obiettivo di medio termine e si valuterà con particolare attenzione se la flessibilità sia usata davvero per gli investimenti, se ci sono piani di rientro dalla deviazione e progressi sulle riforme. Niente regali, insomma, anche perché le previsioni economiche d'inverno della Commissione indicano che la penisola è a rischio di significativa deviazione dall'obiettivo di medio termine nel 2016. Bruxelles precisa: queste conclusioni non cambierebbero nel caso l'impatto incrementale sul bilancio dell'eccezionale ondata di migranti venisse escluso dalla valutazione. Capitolo a parte per la Spagna, ancora senza governo dopo quasi 3 mesi. A Madrid, Bruxelles ha inviato una raccomandazione autonoma chiedendo di riportare il deficit sotto il 3% del PIL quest'anno. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È arrivata poi la replica del Ministero dell'Economia. La lettera di Bruxelles riconosce che il debito si è stabilizzato. Si legge: il rapporto a cui fa riferimento, cioè l'analisi sul debito, fu preparato anche lo scorso anno senza portare a procedure di infrazione. Passiamo al terrorismo. Un 22enne somalo richiedente asilo e ospite di un centro di accoglienza in Molise è stato arrestato perché progettava un attentato a Roma, alla stazione Termini. Il ministro Alfano ha sottolineato: questo arresto dimostra che la prevenzione funziona. E poi più tardi qui effettuò notte scenderemo un po' più nei dettagli di questa vicenda. Intanto passiamo alla Libia. Le salme di Salvatore Failla e Fausto Piano, i due italiani uccisi in Libia, dovrebbero essere imbarcate tra circa mezz'ora sul C-130 dell'aeronautica militare che le riporterà in Italia. Secondo quanto si è appreso, i corpi sarebbero da poco stati prelevati dall'ospedale dove si è svolta l'autopsia in Libia. Intanto, come vi dicevo, la vedova di Failla, durante una conferenza stampa nello studio dell'avvocato, il suo avvocato Grimaldi, ha detto: uno dei sequestratori mi chiamò, parlò in italiano, e ha aggiunto poi che ricevette una telefonata il 13 ottobre scorso in cui il marito chiedeva di aiutarlo. Sono rimasto da solo, diceva, prima stavo bene ma ora ho bisogno di medicine, la Bonatti non fa più niente. Sentiamo quest'audio. Pronto? Con chi sto parlando? Ciao, sono Salvo. Adesso i miei compagni non sono più qui con me, li hanno portati via. Prima stavamo abbastanza bene, ma adesso la Bonatti non ne può più sapere. Io sono rimasto qua da solo, ho bisogno di cure mediche. Ti prego, parla con i telegiornali, parla con i giornali. Ho bisogno d'aiuto, la Bonatti non può sapere niente. Vedi di muovere tutto quello che puoi muovere. Ascolta, questa è una registrazione. Scusa, io sono Rosalba. Vuoi parlare con me un attimino? Questa è una registrazione, io voglio parlare con mio marito. Senti Rosalba, senti. Sì, io l'ho sentito, mi fai parlare con mio marito, questa è una registrazione. E questo, insomma, è quello che avete sentito, quest'audio del disperato appello di Salvatore Failla, probabilmente appunto registrato, come cercava di capire la moglie, che arrivò in una telefonata il 13 ottobre scorso. La donna poi chiese ai sequestratori di passargli il marito, ma questi si rifiutarono. Migranti, la Macedonia blinda i confini, quindi la rotta dei Balcani ormai è chiusa, la Grecia sempre più in emergenza, ci sono 40.000 profughi bloccati e altri che sono in arrivo, anche di questo ci occuperemo più tardi. Siamo alla politica, con le primarie di Napoli. Il comitato organizzatore delle primarie del centrosinistra ha respinto il ricorso di Antonio Bassolino e ha proclamato quindi vincitrice Valeria Valente. Bassolino ha parlato di un colpo di spugna che offende la città, il PD si è spaccato e di questo torneremo a parlare poi tra poco qui effetto notte. Per quanto riguarda invece le primarie di Roma, a seguito del riconteggio delle schede bianche, lì c'era stata la questione delle schede bianche, il comitato delle primarie del centrosinistra a Roma comunica che sono risultate 567 e non 2866 come detto in precedenza. I voti validi sono dunque 43.607, le nulle 326, le contestate una. L'omicidio di Giulio Regeni. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale Paolo e Claudio Regeni, genitori di Giulio, con la sorella Irene. È stato, si legge in una nota, un colloquio composto, non senza una valenza emotiva, nel quale è stata ribadita la solidarietà dell'intero Paese e l'impegno a fare di tutto per fare piena luce su quanto accaduto. Spostiamoci di nuovo all'estero, con la Francia, la tanto attesa prima giornata di mobilitazione contro la contestatissima riforma del lavoro in Francia, un Jobs Act che vuole restituire flessibilità alle vecchie regole regole cui sono legati i francesi. Si conclude oggi con risultati in chiaroscuro, mobilitazione a metà fra trasporti e scuole, 500.000 persone in tutta la Francia secondo i sindacati, 224.000 stando alla polizia. Ogni mondo e paese praticamente ad appoggiare il movimento di contestazione, secondo i sondaggi è un francese su due. Di nuovo in Italia con la cronaca e l'omicidio di Roma, oggi c'è stato l'interrogatorio di due autori del delitto. Manuel è un consumatore abituale di cocaina. In questa vicenda la cocaina ha avuto un ruolo fondamentale, senza non avrebbero ucciso. Lo dice alla Zanzara l'avvocato Michele Andreano, legale di Manuel Foffo, uno dei due assassini che ha confessato l'omicidio del 23enne Luca Varani, avvenuto al culmine di un festino a base di alcol e droga venerdì scorso a Roma. Dopo la perizia tossicologica chiederò quella psichiatrica, aggiunge ancora Andreano. Magari possiamo arrivare all'infermità parziale, evitando l'ergastolo. Oggi, per entrambi gli accusati di omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà, è stata la giornata degli interrogatori di garanzia in carcere e anche Marc Prato è pronto a parlare, come ha confermato il suo avvocato Pasquale Bartolo. Si è mostrato pentito come un ragazzo che dopo aver fatto una cosa tenta il suicidio. Credo che non si debba neppure aggiungere nulla. Intanto è emerso che gli assassini avevano inviato 23 messaggi identici ad altrettanti ragazzi per invitarli all'appuntamento con la morte nel loro appartamento e che solo Luca aveva risposto. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poco fa è arrivata la dichiarazione del legale di Marc Prato. Non è stato lui a infliggere il colpo finale, la coltellata al cuore a Luca Varani, ha detto l'avvocato Pasquale Bartolo, difensore del trentenne arrestato appunto per l'omicidio del Collatino. Lo ha detto lasciando il carcere di Regina Coeli al termine dell'interrogatorio di garanzia. Prato dunque ha rigettato la ricostruzione fatta da Foffo davanti al GIP, che ha sostenuto come il colpo finale a Varani fosse stato inferto da Prato. Quindi adesso si rimpallano un po' le responsabilità, come si poteva immaginare. La vicenda di Stefano Cucchi, pubblicate e depositate le motivazioni della Cassazione che ha rinviato giudizio dei cinque dottori del Pertini. I medici dell'ospedale Pertini avevano una posizione di garanzia, si legge, a tutela della salute di Stefano Cucchi, e il loro primo dovere era diagnosticare con precisione la sua patologia anche in presenza di una situazione complessa che non può giustificare l'inerzia del sanitario o il suo errore diagnostico. Lo scrive appunto la Cassazione nelle motivazioni. Vi ricordate Cucchi morto nel 2009 dopo una settimana di ricovero. Arrivano notizie e novità negative su Fukushima. In Giappone, dopo 5 anni, ancora allarme nucleare. In Giappone, dove i livelli di radioattività risultano 35 volte superiori alla norma, a dirlo gli esperti di Green Cross, che è un'organizzazione non governativa ambientalista che ha effettuato i campionamenti nella prefettura di Fukushima per valutare gli attuali rischi per l'uomo e l'ambiente. L'organizzazione lancia anche un appello alle autorità per estendere il raggio di evacuazione dalla centrale nucleare. E una notizia anche che riguarda il virus Zika. Zika si sta diffondendo con estrema rapidità a Porto Rico. Ci saranno molti più casi di contagio che nel resto degli Stati Uniti. L'isola viene definita il ground zero dell'epidemia per gli Stati Uniti. A prevederlo il direttore dei centri per il controllo e la prevenzione delle malattie in America, nel corso di una visita proprio nel territorio dell'Unione drammaticamente colpito dall'infezione portata dalle zanzare, appunto Porto Rico. Cinema. I fratelli Wachowski sono ora sorelle, i due registi, Larry e Andy, ora sono Lana e Lily, conosciuti soprattutto per aver ideato la saga di Matrix, sono ora a tutti gli effetti sorelle. Dopo il cambio di sesso di Lana, anche Lily, 48 anni, ha reso pubblico il suo cambiamento, costretta, dice dal Daily Mail, pronto a pubblicare la notizia. Per chiudere c'è lo sport. Prima di tutto la lotta libera, dopo aver vinto il mondiale lo scorso settembre, prima volta per l'Italia, Frank Chamiso ha conquistato l'oro nella categoria 65 kg anche agli europei di lotta libera in corso a Riga in Lettonia. Il lottatore nato a Cuba è naturalizzato italiano dopo le nozze con la lottatrice Caneva. Chissà quando litiga, è meglio che non litigano perché non so come si affrontano. Dario Ricci, invece qui parliamo di partite di calcio. Sì, qui diciamo lo scontro, il livello dello scontro è alto, ma almeno mediato da quella sfera di cuoio, cara Roberta. Mantiene le distanze, sì. 30° del primo tempo a Londra tra Chelsea e Paris Saint-Germain, 1-1, partita bella, spettacolare, in vantaggio i parigini al 15° con Rabiot su assist di Ibrahimovic, al 26° il pareggio di Diego Costa. Vi ricordo che all'andata il Paris Saint-Germain vinse per 2-1, quindi con questo risultato sarebbe qualificato, ma gara neanche a dirlo quanto mai aperta. Chiuso invece il discorso qualificazione nell'altro ottavo di finale che era in programma oggi, è il Benfica accedere ai quarti grazie al successo per 2-1 a San Pietroburgo, alla casa dello Zenit. Grazie da Ruricci e ci aggiorniamo dopo con le partite di Champions. Intanto sto vedendo tanti vostri messaggi che stanno arrivando a proposito di questa idea degli oncologi che vorrebbero aumentare di 20 centesimi il costo dei pacchetti di sigarette, perché dice si ricaverebbero 720 milioni l'anno da destinare a un fondo per pagare le costose terapie innovative contro il cancro. Cosa ne pensate? Sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che gli sms al 349-238-6666. Scrive Simone da Roma: ciao Roberta, sono un fumatore mio malgrado, ho una mamma col tumore al seno e pagherei anche un euro in più per la ricerca. Simone, però tanto smetti anche tu di fumare. Poi sono un fumatore, un altro ascoltatore, ma se aumentassero le sigarette di 10 centesimi e destinassero 3 miliardi e mezzo alle cure e altrettante alla ricerca sarei molto felice. Ciro da Terni: buonasera, sono un moderato fumatore e l'idea mi piace, meno male che piace ai fumatori. Poi vediamo quest'altro messaggio, Marco da Bergamo: sul fumo c'è una grande contraddizione, lo Stato ha il monopolio sui tabacchi e quando ti ammali di tumore magari collegato al fumo lo stesso Stato paga le cure. Sì, questo è un paradosso di cui purtroppo si parla da molto tempo. Vediamo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a parte gli sms. Federica scrive: penso che si stia usando il fumo come scusa causa di tutti i tumori. Si rendono conto che il tumore al polmone ce l'hanno anche non fumatori che non hanno mai subito fumo passivo e vivono in zone meno inquinate. Preferirei usarli per sensibilizzare le persone sui rischi del troppo glutine e cereali. Federica, insomma, diciamo, questa, vabbè, si dice che si fa anche molto business sulla questione del glutine, adesso non entriamo in questi particolari, però perché aggiungere danni a danni? Il fumo è soltanto veleno, non è come lo zucchero o altre cose che sì, non fanno benissimo, però in parte sono anche nutrimento. Il fumo è veleno, Federica, quindi si può essere non d'accordo o meno con l'aumento del costo delle sigarette, però non tiriamo in mezzo altre cose che forse c'entrano un po' poco. Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666, tra poco torniamo sulle primarie di Napoli. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E prima di ricordarvele in breve le notizie, ancora i vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, che numeri per i messaggi e anche per i WhatsApp, ma preferisco pagina Facebook possibilmente, e i messaggi arrivano un po' più grandi anche da leggere, visto che sono su tanti piani contemporaneamente mi saltano di più agli occhi. Cosa scrivete a proposito di questa idea degli oncologi di destinare, di aumentare di 20 centesimi i pacchetti di sigarette per destinare il ricavato di 720 milioni l'anno alla ricerca e anche i farmaci piuttosto cari per curare i tumori? Dice l'ascoltatore al 349-238-6666: inutile sprecare i soldi per il tumore ai polmoni, i fumatori sono comunque tutti condannati. Non è assolutamente vero, smettete per tempo, e poi comunque i soldi per la ricerca servono sempre per le medicinali. Doris da Trieste: magari gli aumenti fossero maggiori, un consumo voluttuario così indubitabilmente dannoso deve essere scoraggiato in ogni modo, comunque è giusto che le inevitabili cure successive siano rimborsate da accise adeguate. Poi pagina Facebook, Enzo: io destinerei a questo fondo una parte, minimo 50% delle salatissime visite private che gli oncologi e tutti gli altri specialisti fanno pagare ai loro pazienti, probabilmente il ricavato sarebbe ancora più elevato, ma per molti penso che sia il sistema sanitario nazionale, le loro tariffe fanno male, non le sigarette. Sigarette, Enzo, non giriamoci intorno, fanno male. Roberto: direi ottima idea, ma porterei a 10 euro al pacchetto e risolveremo parecchie cose in ambito sanitario, anche se le lobby del tabacco sono tra le più potenti al mondo. Buon lavoro, grazie Roberto. Adesso allora vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata, poi cominciamo a entrare nel cuore degli argomenti. Libia: il ministro Gentiloni dice l'Italia non vuole avventure, nessun riscatto è stato pagato, e poi le salme che dovrebbero arrivare a breve a Roma dopo le autopsie. E intanto la moglie, la vedova di Fail, dice: ho ricevuto una telefonata a ottobre, lui chiedeva di aiutarlo perché era stato abbandonato a se stesso. A Napoli bocciato il ricorso di Bassolino, Napoli divide il PD, la sinistra Dem all'attacco, Guerini vice segretario dice basta polemiche. L'Unione Europea sui conti pubblici avverte l'Italia e altri 5 paesi, bisogna adottare correzioni necessarie, dice. Arrestato in Italia un somalo in Molise, preparava un attentato a Roma. e i migranti con la Macedonia che blinda i confini, viene chiusa ormai la rotta dei Balcani e quindi emergenza in Grecia, ci sono 40.000 profughi bloccati, altri in arrivo. L'omicidio di Luca Varani a Roma, scambio di accuse tra Fofo e Prato, il colpo finale non fu di Marco, dice il legale di Prato, al festino si scopre erano in tanti. E addio a Sir George Martin, l'uomo che creò i Beatles. Ritorniamo allora sulle primarie del centro-sinistra Napoli, visto che rispetto a ieri ci sono delle novità. Hanno visto domenica le primarie, la vittoria di Valeria Valente, ma su questa vittoria sono scoppiate le forti polemiche per sospetti di irregolarità nello svolgimento delle votazioni, che sarebbero state testimoniate dal sito Fanpage con un video in cui si vedono dei consiglieri comunali di centrosinistra, ma poi il giorno ieri un altro video con anche dei consiglieri di centrodestra in cui queste persone davano dei soldi agli elettori per incitarli a votare e a votare in particolare Valeria Valente. Per questo ieri Antonio Bassolino, lo sconfitto Bassolino, ex sindaco, ex governatore, sconfitto per 450 voti, ha presentato ricorso alla commissione di garanzia del Partito Democratico, ricorso che però oggi è stato bocciato poiché è ritenuto irricevibile in quanto presentato oltre le 24 ore nei termini di scadenza, ma anche perché, dice Iacone, presidente della commissione di garanzia, in realtà c'è un motivo anche nel merito. Lo sentiamo? La commissione ha ritenuto il ricorso non accoglibile sotto due profili. Un profilo, diciamo, sulla tempistica, perché era fuori tempo ai sensi del regolamento, ma anche si è soffermato sul merito perché complessivamente le cose contestate non influivano sulla libertà di voto e non determinavano alla fine, diciamo, la invalidità del voto stesso, posto che nei seggi, come certificato dai verbali e come certificato anche da qualcuno che ha fatto delle dichiarazioni, non si era verificata alcuna irregolarità. E ha detto Iacone, fra l'altro, ha aggiunto, si è votato per 13 ore e nel video si vedono 2 minuti e mezzo di immagini, quindi non sono sufficienti 2 minuti per inficiare 13 ore di voto. A questo punto Valeria Valente è stata proclamata oggi dalla Commissione di Garanzia la vincitrice ufficiale di queste primarie e Bassolino ha commentato, questo è un colpo di spugna che offende la città. È intervenuto il vice segretario del PD Guerini, che ha detto alcuni episodi avvenuti a Napoli non vanno sottovalutati, hanno la nostra attenzione più alta, ma non inficiano la validità delle primarie, cosa anche sottolineata dall'altra vice segretaria del PD che è Serracchiani. Le primarie sono un esercizio straordinario di democrazia a cui il Partito Democratico non intende rinunciare. Pochi casi isolati che vanno condannati con fermezza non possono inficiare il risultato delle primarie. Altri fanno scelte diverse, noi facciamo tutto alla luce del sole, altri si chiudono in una stanza, noi siamo diversi. Beh, nel PD è scoppiato lo scontro, Bersani si è scagliato contro i colleghi del PD, dice in rituale che ci siano stati pronunciamenti di esponenti dell'esecutivo del partito prima che si esprimesse la commissione di garanzia, dice a prescindere dagli esiti non ci dovrebbero essere queste sgrammaticature e bisogna entrare nel merito perché c'è un problema politico gravissimo, il disagio dei nostri elettori. Ne parliamo con Ottavio Lucarelli, redattore politico di Repubblica Napoli. Buonasera Ottavio. Ciao, buonasera, ciao. Senti, tra l'altro qualcuno, a parte altre cose, altri dettagli che ci racconterai tu, ma qualcuno si chiede come mai questo video di Fanpage, se ci sono state le primarie domenica, è praticamente uscito nella serata di lunedì. Sì, ma infatti stamattina nelle pagine nazionali di Repubblica, tra i tanti servizi abbiamo pubblicato anche un'intervista al direttore di Fanpage, chiedendogli proprio questo, e lui ha detto che dovevano fare le necessarie verifiche. Poi teniamo presente che appunto il primo video con gli episodi all'esterno del sito, appunto, è stato diffuso lunedì. Ieri è stato diffuso il video di un consigliere che però non è più un consigliere di centrodestra, ma un consigliere che da un po' di tempo già è passato a Scelta Civica, consigliere di municipalità, un assessore di municipalità. Quindi il video, diciamo, diffuso ieri e anche in quel caso il direttore dice che abbiamo dovuto fare tutte le nostre verifiche. Senti, vogliamo sentire anche l'opposizione di Battista, per esempio il Movimento 5 Stelle, come commenta questa vicenda? Gli altri hanno truppe cammellate, voto di scambio e di fatto poi Mafia Capitale inizia così, Se ci fate caso, prima si truccano le primarie e poi si finisce a Mafia Capitale e oggi di nuovo il Partito Democratico, oltre a truccare bilanci, truccare qualsiasi decreti, trucca le primarie. Tu che hai lunga esperienza, che conosci bene Napoli, lunga esperienza anche diciamo dell'attività comunale amministrativa, Ottavio, che te ne è sembrato di questa vicenda? È diciamo una cosa grave, sottolinea minoranza del PD, anche l'opposizione con il Movimento 5 Stelle, o dice, sono casi isolati, però insomma per il resto... Mi ha colpito la dichiarazione della Serracchiani. Quando dice che facciamo tutto alla luce del sole, ha detto noi del PD, e in effetti questi episodi ripresi da Fanpage sono alla luce del sole. Il paradosso è questo, cioè sono tutti all'esterno del seggio. Ora, vabbè, dei cinque episodi, uno in realtà riguarda il voto di un paraplegico, tra l'altro il padre di un parlamentare. In altri casi, appunto, c'è un consigliere comunale che consegna un euro, c'è un altro caso, un consigliere di municipalità che consegna invece una banconota da 10 euro, quindi sono episodi gravi. Napoli viene dalle primarie di 5 anni fa, mai convalidate, che portarono prima al commissariamento del partito, qui è stato commissario per oltre un anno Orlando, attuale ministro della giustizia, e poi portarono alla vittoria diciamo, De Magistris proprio sull'onda di quelle primarie diciamo, mai convalidate per brogli, ma lì il caos fu denunciato già nel corso della domenica durante le votazioni con ricorsi eccetera. In questo caso la particolarità è questa, che in nessuno dei 78 seggi, in nessun verbale dei 78 seggi c'è la segnalazione da parte di nessun esponente, di nessun rappresentante dei candidati, cioè nessun dei 78 rappresentanti di Bassolino o di Sarracino o dell'altro ha segnalato alcun episodio irregolare dentro i seggi. Questo ha consentito oggi al comitato di approvare tutti i 78 verbali e proclamare vincente la Valente. Quindi dal punto di vista dei verbali non c'è una sola contestazione rispetto invece a centinaia di contestazioni che furono fatte 5 anni fa nei seggi. Che è successo? Quindi sembrava tutto regolare, poi è arrivato appunto il video di cui tu hai parlato, di cui abbiamo parlato, con gli episodi avvenuti all'esterno dei seggi. Ora, che succederà? Bassolino nel frattempo ha annunciato un altro ricorso, forse addirittura due ricorsi ancora, poi saranno presi sicuramente provvedimenti da parte del PD nei confronti di quei consiglieri comunali o di municipalità di cui parlavamo prima. Penso proprio di sì, sarà interessante vedere poi che cosa seguirà questi ulteriori ricorsi, se ci saranno di Bassolino. Intanto grazie Ottavio Lucarelli di Repubblica Napoli. Grazie Ottavio, buon lavoro. Fra l'altro, scusate, stanno arrivando continuamente i vostri messaggi appunto su questa proposta degli oncologi per quanto riguarda l'aumento dei pacchetti di sigarette. Leggo questo messaggio perché ne sono arrivati vari in questi giorni e mi sarei un po' stufata. Cioè Emanuele che dice: oh, non si riesce a sentire dai vostri microfoni una mezza parola sul fatto che l'omicidio di Roma si è consumato nell'ambiente gay, manco a pagarvi oro. Emanuele, scusami, ma violenze, stupri, torture di ogni tipo, sgozzamenti nel mondo da migliaia di anni ci sono diciamo azioni di uomini in ogni parte del mondo, anche in Italia, femminicidi, ammazzamenti vari, cioè a ogni latitudine, in ogni periodo storico, e tu vieni a dire che non diciamo che è successo in un ambiente gay. Per lo più questi uomini massacratori, torturatori, mi pare che tanto gay non siano, non so, mi viene in mente, ieri ho visto Venuto al Mondo che parla anche dei massacri e dei stupri di massa in ex Jugoslavia. Non mi sembra che si debba sottolineare che siano tutti eterosessuali, adesso sono tutti dei mostri, gli uomini eterosessuali. In questo caso, probabilmente, forse era ambiente gay. Allora, questo è un piccolo particolare che non c'entra assolutamente niente con gli assassini, con la loro sessualità. Emanuele, nulla. Chiunque altro scrivesse lo capisca definitivamente. Cambiamo argomento adesso con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. E parliamo invece di questa vicenda inquietante naturalmente, che poi ha scatenato anche la polemica politica, gli attacchi della Lega eccetera. C'è questo 22enne somalo che è stato un richiedente asilo, ospite di un centro di accoglienza in Molise, che è stato arrestato perché progettava un attentato alla stazione Termini. La Digos ha accertato che proprio oggi sarebbe fuggito da quella struttura che lo accoglieva per recarsi nella capitale e quindi agire secondo le sue intenzioni, no Raffaella? Allora sì Roberta, però intanto chiariamo un paio di aspetti, anche perché su questi casi, su questo genere di notizie poi si fa presto anche a generare anche strumentalizzare il panico, anche, certo. Oltre che strumentalizzare, innanzitutto sì, questo imam somalo 22enne era un richiedente, aveva fatto domanda di richiesta d'asilo in molti paesi d'Europa, non solo in Italia, dove era arrivato l'anno scorso, una domanda che è stata bocciata in molti paesi d'Europa, in Italia compresa. Per quanto riguarda il tentativo di progettare un attentato a Roma, quello che i magistrati, quello che gli inquirenti hanno in mano sono soprattutto le sue parole, cioè queste conversazioni intercettate in cui dice che praticamente farsi saltare in aria è la via più semplice e che dice andiamo a Roma, cominciamo dalla stazione. Parole sicuramente inquietanti, parole che infatti hanno portato poi alla fermo di oggi, ma non hanno in mano elementi per dire che da questi proclami ci fosse già una fase operativa e organizzativa dell'attentato, se non certo il fatto che lui oggi aveva provato ad allontanarsi da questa struttura di Campomarino, un paese della Molise che è diventato questo centro, un centro d'accoglienza per migranti, e quindi nel momento in cui ha provato ad allontanarsi è stato fermato ed è stato arrestato con l'accusa soprattutto di istigazione, cioè appunto perché lui aveva svolto un'attività di proselitismo, di inviti alla jihad, facendo vedere video, commentando, leggendo a Charlie Hebdo, cioè gli investigatori non hanno in mano elementi per dire stava già pianificando un attentato a Roma, ma giustamente l'hanno fermato prima, perché è questa quell'attività di prevenzione. Che anche il ministro Alfano sentiamo, oggi ha voluto. Visto che l'hai citato, sentiamone una parte di Alfano. È un lavoro delle forze di polizia che testimonia che il sistema di prevenzione funziona, perché era un soggetto già controllato, che aveva richiesto protezione internazionale e non solo in Italia, e l'ulteriore riprova che il nostro lavoro per diminuire il coefficiente di rischio è un lavoro che ottiene dei risultati. E noi poi dice Alfano, naturalmente non si può con questo garantire che la sicurezza sia totale, che non ci sia, che ci sia il rischio zero, si può che immaginare, non esiste, certo, esiste, da nessuna esatto, parte. Però c'è anche un aspetto diciamo interessante che il procuratore di Campobasso evidenzia e che trovo davvero interessante, il fatto che nel momento in cui le prediche diciamo di questo imam nel questo centro religioso molisano avevano assunto una deriva particolarmente violenta, c'è stata anche una parte di questi fedeli che ha deciso di non frequentarlo più, di non frequentare più questi riti religiosi, insomma di prendere le distanze da lui e dal suo modo di appunto predicare. Quindi questo fa capire come ci fosse anche un segnale di distanza innanzitutto all'interno della stessa comunità. Roberta. Raffaella, tu hai sentito il procuratore? Procuratore di Campobasso, sì, Armando D'Alterio, appunto, che dice anche questo. Vogliamo sentirlo? Sì. Un'intensa attività di istigazione, facendo riferimento alla propria adesione al-Shabaab, l'organizzazione terroristica somala collegata a Al-Qaeda, ma facendo riferimento anche all'ISIS, commentando i file video che scaricava da internet e invitandoli alla jihad, a effettuare attentati, e indicando anche la stazione di Roma come un obiettivo. Questo imam somalo, ventenne, stava probabilmente per andare a Roma, era fuggito dalla struttura. Infatti siamo intervenuti col fermo per questo motivo. A proposito della prevenzione di cui si parlava, insomma, questo è il procuratore di Campobasso. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Allora, prima di questa pausa di ricreazione, ancora i vostri messaggi con Luca da Milano che dice: io dal mondo, se dipendesse da me, leverei quattro cose: droghe, alcol, tabacco e armi. Ditemi quanto male in meno ci sarebbe. Luca, mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, insomma, siamo un minimo di buonsenso, ma immagina anche come sia possibile levare queste cose con le lobby che ci sono, con i traffici, i miliardi anche che si fanno sulle droghe, sulle armi. Immaginiamo, ecco, grazie, ci vorrebbe la bacchetta magica. Ancora poi i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a proposito di questa proposta degli oncologi di far aumentare di 20 centesimi i pacchetti di sigarette, perché se ne ricaverebbero 720 milioni da dedicare alle cure, alle ricerche. Gabriella: mio nonno ha fumato per 89 anni nazionali senza filtro, è morto a 94 anni perché è caduto in officina dove ancora ferrava cavalli, spero di avere parte genetica come la sua. E quella, Gabriella, è fortuna, è pura fortuna, ma poi bisogna anche agire con la prevenzione e con l'intelligenza. 349-238-6666 per i vostri messaggi, pagina Facebook Effetto Notte che è sempre lì per voi. Ci risentiamo a momenti. Oh, mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data. Ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Ti aspettiamo a Milano all'Arena Civica Palazzina Appiani, sabato 12 marzo ore 15. Ciao! In collaborazione con Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo dove ce l'avamo lasciati, sempre Roberta Giordano con voi. Continuano molti dei vostri messaggi, non immaginavo tutta questa popolarità e questa voglia di scrivere sulla proposta degli oncologi di aumentare di 20 centesimi i pacchetti di sigarette per ricavare quei 720 milioni l'anno che sarebbero da destinare poi a un fondo per pagare le costose terapie innovative contro il cancro. Ne voglio leggere diversi, sono tantissimi, per esempio al 349-238-6666, numero per gli sms e per i whatsapp. Un ascoltatore: se l'industria delle auto hanno alzato il livello degli scarichi sulle nuove auto, si dovrebbe chiedere a loro la partecipazione economica per la ricerca sul cancro. Questa è una proposta. Poi Largen sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: ottima idea, piacerà poco però. Giancarlo scrive: ho 45 anni, sono 50 anni che aumentate sigarette e sigari, vergognatevi ladri. Non so a chi ti riferisci Giancarlo, ma comunque tutto aumenta. Andrea: sarebbe una partita di giro, un versamento previdenziale di tipo retributivo, io farei pagare la sanità a chi la usa, si facciano un'assicurazione e cerchino di fare una vita più sana per non ammalarsi. Non è, Andrea, che si ammalano solo quelli che colpevolmente non fanno una vita sana, e poi ci sono le persone anche che non se lo possono permettere certe cose. Non facciamo come gli Stati Uniti, salviamo quello che ancora di buono c'è in Italia. Rosa: basta che il fondo non venga poi utilizzato per tutt'altro come al solito. Michele: ritengo una proposta giusta, in Inghilterra le sigarette costano fino a 10 euro il pacchetto, fanno bene. Poi dice Fulvia da Vicenza: i denari dovrebbero essere versati dalle multinazionali lobbistiche del tabacco. Bene, poi continuate con i vostri messaggi, adesso stiamo per cambiare argomento, ma vi ricordo dopo questa pausa gli argomenti principali della giornata. Conti pubblici, lettera della Commissione europea all'Italia, flessibilità possibile se rispettate gli obiettivi, se ci saranno progressi sulle riforme. Terrorismo: fermato un imam di 22 anni che progettava un attentato alla stazione di Roma, e il ministro Alfano sottolinea: la prevenzione funziona. Libia: la vedova di Salvatore Failla rivela, uno dei sequestratori mi chiamò e parlò in italiano e il marito diceva mi hanno abbandonato, e a breve previsto il rientro delle salme. Migranti: la Macedonia blinda i confini, sempre più emergenza per la Grecia, ne parleremo a momenti. Le primarie di Napoli: rigettate il ricorso di Bassolino, proclamata vincitrice Valeria Valente. L'ex sindaco commenta: il PD chiude gli occhi, è un colpo di spugna che offende la città. L'omicidio di Roma: il legale di Marco Prato dice non è stato lui a infliggere il colpo finale a Luca Varani e si rimpallano le responsabilità. Il caso Cucchi: pubblicate le motivazioni della Cassazione per il rinvio a giudizio dei 5 dottori del Pertini, ingiustificabile l'inerzia dei medici. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. Viaggio, come sapete, fino al 12 marzo, questo di Radio 24, nel paese che più di tutti racconta in modo emblematico la crisi che stiamo vivendo da un punto di vista economico e anche per l'emergenza migranti, paese che è la Grecia. Dopo la chiusura della rotta balcanica col sigillo delle frontiere di tutti i paesi lungo quell'itinerario, la Grecia si trova sempre più in affanno, in emergenza, perché ci sono 40.000 profughi bloccati, migranti bloccati, altri in arrivo, come ci può confermare Valeria De Rosa, la nostra Valeria De Rosa, che in diretta da Atene. Ciao Valeria. Sì, buonasera Roberta, a te e ai nostri ascoltatori. Lo stavi appunto anticipando: dopo la chiusura della rotta balcanica, tra l'altro è notizia di pochissimi minuti fa che la Croazia sta rimandando indietro, quindi verso la Grecia, 400 migranti, e quindi questi si vanno ad aggiungere, anche se 400 sembra un numero piccolo, si vanno ad aggiungere a tutti quelli che sono già ammassati in questo paese. E diciamo che anche ad Atene il risvolto di questa situazione si comincia ad avvertire, perché moltissimi sono i migranti presenti in città di nazionalità afghana, che sono presenti nei centri, che sono proprio coloro che sono destinati ad essere rimandati in Turchia. Un accordo, quello con la Turchia, su cui molti storcono il naso proprio qui ad Atene, ma necessario per la Grecia, che nei fatti si è ritrovata da sola a gestire oltre 800.000 arrivi lo scorso anno e 130.000 solo nei primi due mesi di quest'anno. Che dicevamo senza già, Valeria, raccontavamo anche, no, della crisi profonda economica che deve sopportare anche la Grecia, quindi ancora più pesante questa situazione. Assolutamente, che continua a fronteggiare questo paese, davvero una crisi dalla quale è molto difficile venire fuori. Senza la solidarietà, mi hanno detto moltissimi interlocutori, non avremmo mai potuto fronteggiare questa situazione. Proprio della solidarietà dei greci mi ha raccontato Sergio, un volontario italiano al Pireo questa mattina. Fino adesso, come negli altri posti, noi dobbiamo, come Rema, dobbiamo comprare alimenti. Qui ancora non abbiamo comprato niente, perché portano alimenti, portano giocattoli, ci hanno fatto una donazione di tavolini piccolini per i bambini, di pennerelli, di acqua, per quello, anzi, da qui partono alimenti per gli altri campi addirittura. Quindi quello che è Pireos, come abitanti di Pireos, c'è un sostegno che è tremendo proprio, a livello alimentare è una cosa tremenda. Il sabato è un andare e vieni di macchine che portano alimenti, fanno loro panini, fanno loro da mangiare, i ristoranti stanno collaborando, è una cosa tremenda proprio. Sì, da quel punto di vista lì, guarda, ci portano tonnellate di brioche, che le vanno a comprare e le portano, scatoloni, è una cosa tremenda proprio, sì. Viene qui lo stadio dell'Olimpiakos addirittura da mangiare tutti i giorni. È una cosa sì, spettacolare da quel punto di vista lì, veramente. Quindi, ecco Roberta, sì. questa è la Grecia, è un paese pieno di contraddizioni, perché qui consideriamo che l'evasione fiscale per esempio è al 40%, però è un paese che sta dimostrando davvero all'Europa che cosa vuol dire saper accogliere persone che fuggono da situazioni disastrose, situazioni drammatiche. Grazie Valeria De Rosa, e poi continuerà il nostro viaggio, come dicevamo, in Grecia. Grazie Valeria. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con la giusta conduttrice Roberta Giordano sempre con voi. Altri argomenti tra pochissimo, però vedo talmente i vostri messaggi, tanto entusiasmo nello scrivere su questa proposta degli oncologi, chi è favorevole, chi è contro. Per esempio Marco dice: anche un euro a sigaretta in più pagherei, o meglio ancora, perché a chi fuma non si fanno pagare in toto le cure derivanti dal fumo. Elena scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: sono una fumatrice accanita, pure sfido la sorte, me ne rendo conto, ma non sopporto l'ipocrisia. Ma come si fa a aumentare il prezzo delle sigarette per dire che in questo modo si finanzierà la ricerca sul cancro che le stesse sigarette vendute dallo Stato in regime di monopolio contribuiscono a provocare? Veramente senza vergogna. Su questo siamo d'accordo comunque. Poi c'è un medico che scrive su WhatsApp: sono un medico, proposta vergognosa quella degli oncologi, però non mi argomenti perché, signor medico. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Libia, Gentiloni, il ministro dice l'Italia non vuole avventure a proposito dell'intervento d'Italia in Libia, nessun riscatto assicura per coloro che sono stati liberati, gli ostaggi, le salme dovrebbero, dopo le autopsie degli ostaggi uccisi, arrivare a momenti in Italia. Bocciato il ricorso di Bassolino per quanto riguarda le primarie di Napoli, che dividono il PD, la sinistra Dem è all'attacco, e Guerini, vice segretario del PD, dice basta con le polemiche. L'Unione Europea avverte l'Italia sui conti pubblici e altre 5 nazioni: bisogna adottare le correzioni necessarie, dice in queste lettere spedite. Arrestato in Italia un richiedente asilo somalo in Molise, in un campo di accoglienza, preparava l'attentato a Roma, e insomma Alfano dice questo significa che la prevenzione funziona. Migranti, ne abbiamo appena parlato, con la rotta balcanica ormai chiusa e la Grecia che si trova sempre più in emergenza con 40.000 migranti bloccati, altri che sono in arrivo. L'omicidio Varani a Roma, scambio di accuse tra Foffo e Prato. Europa 24 notte. È in arrivo il via libera finale dell'Europarlamento all'accordo che comprende anche la quota aggiuntiva per l'importazione senza dazi nell'Unione Europea di 35.000 tonnellate in più l'anno di olio d'oliva tunisino. Il provvedimento è stato inserito d'urgenza nell'ordine del giorno delle votazioni di domani della plenaria del Parlamento. Ci sono stati però anche molti pareri contrari, ma ci sono delle ragioni per questa apertura che poco impatta sul mercato oleario, come spiega il presidente della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, Giovanni Lavia, al microfono di Anna Marino. L'Europa apre all'olio che arriva dalla Tunisia. Il Parlamento europeo si è espresso sulla proposta che apre le porte ad una quota extra di 35.000 tonnellate di olio d'oliva tunisino senza dazi per l'anno 2016-2017. Molti pareri contrari, ma il presidente della Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare del Parlamento europeo, Giovanni La Via, dice: il risultato del voto non è del tutto negativo perché si sta aprendo il mercato, sia pure in misura limitata, per una giusta causa. Sentiamo. Le origini sono tutte di politica estera. Nel momento in cui chiediamo agli stati della sponda nord africana che si affacciano sul Mediterraneo di bloccare i flussi degli immigrati e soprattutto cerchiamo di creare in quelle aree condizioni che frenino i processi migratori, bisogna trovare spazi di mercato per i loro prodotti. E loro che cosa producono? Sicuramente non producono prodotti e componenti complessi industriali e tecnologici. Producono prodotti agroalimentari a basso grado di tecnologia, per cui producono olio tra l'altro, e quindi in questo accordo di libero scambio, di apertura degli scambi, al fine di favorire le loro esportazioni, la Commissione europea ha proposto un accordo che riguarda l'esportazione per un paio di anni, poi eventualmente rinnovabile, pensava la Commissione, di olio in esenzione da dazi. Questo è un provvedimento che riguarda quantitativi estremamente piccoli rispetto al mercato italiano ed europeo e quindi non dovrebbe avere grandi impatti, ma abbiamo cercato di limitare ancora gli impatti con una serie di emendamenti approvati dal Parlamento che dovrebbero avere come effetto quello ancora di ridurne gli effetti. In primo luogo di limitare a 2 anni questo periodo. Abbiamo chiesto anche, la Mogherini ci ha assicurato che sarà fatto in termini di implementazione dell'accordo, di suddividere i quantitativi in quantitativi mensili, in modo tale da spalmare gli effetti su tutto l'anno e non avere concentrazione in alcuni periodi. Dall'altro lato ci sono anche alcune richieste di misure compensative che possono e potrebbero dare ristoro ai produttori. Per esempio, come siciliani abbiamo chiesto il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta per l'olio di oliva siciliano, un IGP Sicilia, per poter avere un marchio, un ombrello su un brand noto, in grado ovviamente di consentire e facilitare la valorizzazione di quest'olio. Quindi certo, ci sono alcuni strumenti che vanno nella direzione giusta. Ma questo importa anche una tracciabilità dell'olio, diciamo delle garanzie anche per quanto riguarda il commercio dell'olio, che deve essere assolutamente trasparente. Non c'è dubbio, abbiamo inserito attraverso un emendamento che questo quantitativo, così come tutti gli altri, andranno meglio tracciati. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E non faccio a tempo a leggere i tantissimi altri messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte, così come al 349-238-6666. Sono tanti, sono orgogliosa di voi, ma ci risentiamo alle 22.